difficile, lo so, però è mio. Musica allo stato puro, ti ripigli, è sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce poi più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Per farti ascoltare un messaggio d'amore che vuole danzare. La danza è un gran viaggio, sei bello perché sovrasta ogni guerra e ogni male che c'è. E proprio per questo, mio caro governo, vorrei che si danzi da Torino a Palermo, passando per Brescia, Trieste e Bologna, e in ogni città, perché ognuno lo sogna. Ti prego, permettici di scendere in piazza per poter difendere questa vita pazza. Noi lo faremo ballando e cantando, sognando la pace che stiamo sperando. Il mondo ha bisogno di poter sperare. Troppe censure non fa respirare. Si dà un viaggi premio a certi assassini e poi non lasciamo danzare i bambini. Io non conosco le leggi, però per me chi ha ammazzato non va liberato. Diamo più spazio a qualcosa di buono e non le medaglie a chi spara ad un uomo. Facci ballare e lasciaci urlare, ma per le strade e non sotto il mare. In ogni città vogliamo ballare, perché ogni piazza possa tremare. Ma tremare d'amore è un po' per lo stupore a veder finalmente un po' di candore. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times. concerto gli avanzi. Ecco a voi Federico Romanzi. Se ti è ricoperto, puoi togliere il telo. C'è una canzone, si intitola Cielo. Questa non l'abbiamo mai suonata, è nuova questa qui, eh? Trovo un titolo di fretta. Musichetta che marcetta. Artista? Non si sa. Il cuore. Titolo della canzone. Passami un po' il foglio. Il titolo è Gigi's Love. E il nome dell'artista è Lento Violento Man. Il creatore del Lento Violento. Secondo me è uno forte. E quando suona si aprono le porte. Non facciamo le domande. Sulle mani. meraviglia. Scendiamo a terra. Dal trionfo all'oscurità. Sentieri oscuri. E poi ad un certo punto andrebbe la camicia a quadretti, roba di picnic, insieme dolcemente, poi sdraiati e corsa sui prati, poi di nuovo fermi, abbracciati, eternamente innamorati. Quanto amore. Solo alla Mediterranean Progressive, che non è altro che un minuscolo puntino del mio mondo. Non che disprezzi quel momento, anzi, ne sono eternamente innamorato, non sono cambiato. Ma io e tutti voi abbiamo dato la vita a qualcosa di più completo, il lento violento. Un mondo mai esistito prima. Sono mappe disegnate nel corso di una vita da un'ironia. ironico e giocoso folclorista e non da un banale intellettuale. Nel senso che, se nel contesto musicale intellettuale vuol dire crescere per forza al costo di annoiare l'interlocutore, ascoltatore, io invece preferisco far lavorare insieme in maniera straordinaria i muscoli del mio corpo, le componenti emotive, quelle analitiche, quelle oniriche, il mio assurdo istinto, la mia ignoranza e la mia conoscenza. Ogni mio quark è l'amore. Per trovare l'equilibrio. Passami il vocabolario, scusa. Folclorista. Folk. Di persona, oggetto, fenomeno che esprime l'anima più autenticamente popolare di una cultura. E specie la sua componente di protesta contro le ingiustizie sociali o le convenzioni. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Solo su M2O. Il mio trip non si ingrip. Ogni giorno alle 18. Tu mi ascolti dal salotto.

Piacere intenso che può darmi un ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Agoso. Ritmo. Sì, sì. Devo trovare un passo che mi permetta di percorrerlo. Lento. Violento. Destino Disco Bar oggi è chiuso perché Celestino soffre per amore e ha deciso di starsene da solo nella sua tana, quindi ci siamo trasferiti nella mia cantina emotiva, rinfrescativa, per un momento riflessivo, ma sorseggiando l'aperitivo. Vorrei esaltare di lino che una qualunque passeggiata mezzo alla carreggiata. Sogno è il tuo destino. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sure.